associazione, diciamo, sono stato 10 mesi in carcere. Tenendo questa nuova esperienza ho iniziato come volontario, diciamo. Una volta finito questo percorso mi è piaciuto e ho continuato. Adesso almeno uno ha un lavoro, un impegno, diciamo, più che altro. Sei contento, sei felice, sei realizzato? Sì, certo. La cooperativa Valle del Buonamico produce risultati apprezzabili sia economici che sociali dal 1995. Le 35 aziende che la compongono sono intenzionate ad andare avanti a lungo nonostante le difficoltà quotidiane in terra di 'Ndrangheta. Su un loro opuscolo si legge: «Allora i popoli vedranno la tua giustizia, nessuno ti chiamerà più abbandonata, nella tua terra sarà più detta devastata». Isaia 62:2-4. La seconda storia riguarda Libera, che nella valle di Marro, sempre in Calabria, ha impiantato una cooperativa sui terreni confiscati ai boss. Il reportage di Sabrina Pisu. Per noi ha rappresentato e rappresenta non un gesto eroico o faraonico, un gesto semplice che nella sua ordinarietà ha una straordinarietà. È un gesto che costruisce un'impresa, ma costruisce pure una missione. Perché tutto quello che noi andiamo a fare e andiamo a produrre non fa altro che costituire un'eredità per tanti altri giovani. Il gesto semplice ma straordinario che racconta Sergio Casadonte, socio fondatore della cooperativa Valle del Marro in Calabria, è quello di arare i campi confiscati alle cosche più potenti dell''Ndrangheta nel 1995, dove oggi crescono i frutti di un'economia pulita su una terra libera dal ricatto criminale. Tutti i prodotti per me hanno un valore essenziale. Il peperoncino, il fatto del piccante rappresenta il coraggio nostro, le melanzane, la genuinità, il miele, la dolcezza di lavorare sui campi senza usare né diserbanti né antiparassitari. L'olio, la delicatezza di un qualcosa che la natura ci offre. È un riscatto, è un dare uno sviluppo in una terra martoriata purtroppo dalla rassegnazione e dalla sfiducia che porta tanti giovani demotivati a fare un'emigrazione culturale, quindi a scappare dalla Calabria, per cui rende un terreno fertile alla criminalità mafiosa. Sono sempre di più i giovani che hanno detto no alla rassegnazione e alla sfiducia, hanno rifiutato la cultura mafiosa e la logica del compromesso e hanno deciso di restare e lavorare nel luogo in cui sono nati e cresciuti. Siamo giovani laureati che invece di scappare dalla Calabria e essere nati in Calabria c'è molta versatilità e plasticità. Si passa dal lavoro di segreteria come al lavoro pure sui campi, quando è il periodo, la fase che precede la lavorazione, la trasformazione del nostro prodotto, non so, la raccolta del peperoncino. Un'impresa per voltare pagina e cambiare il destino della Calabria, riscoprendo i sapori della tradizione contadina. La prima pagina di una storia nuova che inizia nel 2004 e che ripercorre Giacomo Zappia, il presidente della cooperativa. Valle del Marro Libera Terra nasce nel 2004 con un progetto promosso dall'Associazione Libera, cui presidente Don Luigi Ciotti, il secondo progetto in Italia di riutilizzo di terreni agricoli confiscati, l'obiettivo principale è di rimettere a coltura, far rifiorire terreni spesso abbandonati da tantissimi anni. Nella cooperativa, che ha come obiettivo l'inserimento di soggetti socialmente svantaggiati nel mondo del lavoro, hanno trovato occupazione anche 3 ragazzi provenienti dalla Libia, sbarcati a Lampedusa e finiti negli scontri di Rosarno, dove sono stati sfruttati da caporali e imprenditori agricoli. Lavorano con noi in cooperativa anche 3 ragazzi coinvolti nei fatti di Rosarno, hanno lavorato prima grazie a una borsa lavoro offerta dalla comunità parrocchiale Santa Marina Vergine di Polistena, dal Duomo, e poi con un contratto stato proposto loro dalla cooperativa. Un lavoro vero, un lavoro pulito, un lavoro nella legalità. L'attività di Valle del Marro va avanti con tenacia nonostante i continui atti intimidatori. Sono stati diversi purtroppo gli attentati, gli atti intimidatori, dal sabotaggio dei mezzi al sabotaggio delle strutture, danneggiamenti di vario genere. Per dire, noi ci siamo, siamo qui, siamo presenti, se vogliamo possiamo. Mai l'attività della cooperativa si è bloccata, nemmeno per un istante, anche a seguito degli attentati. Abbiamo dimostrato veramente la forza di volontà in modo forte che ci ha spinto e ci sostiene in questi anni. La cooperativa è una scommessa vinta, dice Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. La prima scommessa che hanno vinto è quella di fare cooperativa in una terra dal forte individualismo. La seconda scommessa che hanno vinto è di fare cooperativa su dei terreni confiscati alle mafie. Abitare quei terreni significa ridare alla gente la possibilità di riappropriarsi del proprio territorio. Gli attentati intimidatori sono appunto il segno della debolezza delle mafie. La mafia, guardando quei terreni abitati da tanti ragazzi che vengono da tutta Italia, incomincia a dire: questo non mi appartiene più, non è cosa mia, è cosa loro. Ortaggi, olio e miele sono cosa di questi ragazzi e crescono su 120 ettari di legalità, frutto di un gesto semplice ma concreto, come vuole il motto della cooperativa che arriva da Socrate: chi vuole muovere il mondo, muova prima se stesso. Sul mio blog radio24.it potete leggere tutti i post Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, anche su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6:30.